Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. L'ultimo è l'affaire Monte Carlo, col suo intreccio di cronaca giudiziaria, politica e anche rosa. Prima ci sono stati i segreti, le trame e le conversazioni della nuova P2, e non sono mancate anche le ultime rivelazioni dal buio della stagione in cui lo Stato trattò con la mafia. Gli scandali, per non parlare della lunga serie di delitti e gialli vari, anche quest'estate e come tutte le estati forse, hanno riempito le colonne dei quotidiani, le frequenze delle radio e le immagini delle TV d'estate. Anzi, le storiacce sembrano trovare la loro congiuntura astrale privilegiata, ampliando la loro eco fin sotto gli ombrelloni delle affollate spiagge agostane. Ombrelloni come quelli che campeggiano sulla copertina dell'ultimo libro di Antonio Scurati, Gli anni che non stiamo vivendo, edito da Bompiani. E allora, in questa vigilia di Ferragosto, non parliamo di una storiaccia in particolare, come in genere avviene in questa trasmissione, ma ne risfogliamo di diverse per un tuffo dentro il tempo della cronaca, sottotitolo del saggio di Scurati. Tra P3 o nuova P2, a seconda dei gusti, stragi di mafia, tormentoni politici, lei come definirebbe il tempo della cronaca di questa estate 2010? È simile, se non identico, al tempo della cronaca che abbiamo vissuto negli ultimi 10 o 15 anni. Io ho sottotitolato questo mio libro in questo modo, Il tempo della cronaca, perché penso che la cronaca sia proprio la forma dominante, quasi esclusiva, di comprensione, di narrazione della nostra epoca. Sembra che noi non siamo più in grado di rapportarci alla nostra vita individuale o collettiva se non nel tempo breve, brevissimo della cronaca, nel giorno dopo giorno dopo giorno. E anche queste ultime settimane, questi ultimi giorni sembrano appunto restituirci l'immagine di un paese che vive alla giornata, con un respiro cortissimo, con un orizzonte limitatissimo, e quando si vive alla giornata, soprattutto in quei mondi che invece dovrebbero guardare lontano, come la politica, quando l'orizzonte si restringe così tanto, finisce per contenere soltanto malaffare, sottobosco, bassi maneggi, e purtroppo è una sorta di destino quando non ci rimane che la cronaca. Semanticamente, andando a guardare, no? Il ritorno di alcune espressioni o di alcune sigle, come potrebbe essere quella P2, così connotata con un preciso momento storico, anche giudiziario, di molti anni fa, e poi ritornano delle sigle, si usano anche delle espressioni che rimandano a delle epoche passate. Questo tempo della cronaca, che cos'è? Un flashback? Quando a dominare il tempo della cronaca non esiste più storia, orizzonte storico, non è più lecito parlare di accadimenti storici e tantomeno di epoche, no? Esiste solo la dittatura del presente, e allora c'è una sorta di cattiva infinità dell'attimo presente che si ripropone identico a se stesso, senza nessuno sviluppo, senza nessuna reale trasformazione. E allora siamo qui a contare proprio numericamente le P1, le P2, le P3, poi ci saranno le P4, le P5, non ci muoviamo mai, ecco, è questo falso movimento, questa assenza di un divenire reale che è la condanna a cui ci inchioda appunto questo orizzonte angusto, questo spazio ristrettissimo della cronaca. Come si elabora questa cronaca nelle stagioni estive? Lei, la copertina del suo libro è una spiaggia, una classica spiaggia italiana con ombrelloni, mare e bagnanti. L'eco di questi titoli, come si elabora nella spensieratezza estiva? È questo il punto, la spensieratezza. Si tratta veramente di una spensieratezza. Il mio libro, insomma, pone questo interrogativo e la risposta implicita è no. La copertina, mi fa piacere che lei l'abbia notata, perché è una foto molto bella, dà l'idea appunto di un mondo in qualche modo ovattato dentro un benessere da cultura balneare, no? C'è l'azzurro del mare, ci sono i colori tenui degli ombrelloni, uno in fila all'altro. Ecco, se uno lo guarda da lontano, questo mondo in cui noi Io dico, non viviamo da queste immagini appunto di spensieratezza e di agio, ma se uno fissa lo sguardo su questa stessa immagine sufficientemente a lungo rivela qualcosa di sinistro, cioè rivela comunque secondo me un falso benessere, un'indubbia ricchezza, perché noi siamo un paese ricco, la cui ricchezza è in larga parte sommersa e ostaggio di gruppi ristrettissimi e, come dicevo, di bassi maneggi, è una ricchezza occulta, ma è una ricchezza che non ha portato con sé un autentico benessere. Secondo me buona parte del nostro malessere è dovuto proprio a questo, che noi non ci sentiamo sovrani sulle nostre vite, soprattutto come soggetto collettivo, sul piano politico, ci sentiamo spossessati delle nostre esistenze perché sono schiacciate in una dimensione in cui ci sembra impossibile fare presa sulla realtà per guidarla, insomma, guidare il corso della nostra esistenza. E questo è dovuto, torno a dire, al fatto che si vive col fiato corto, con gli occhi a terra e con un orizzonte temporale troppo angusto, da cui vengono escluse le cose fondamentali dell'esistenza, soprattutto quelle collettive, la politica intesa come grande politica, ma anche, perché no, l'avere dei figli, il pensare alla posterità, non trovano spazio su questo metro corto della cronaca. È quello che lei dice su quanto eco dei titoli dei giornali renda un'umanità agiata e protetta la più insicura, delusa e sfiduciata. Ma prima di andare a vedere un po' nel dettaglio anche alcuni dei fatti, degli episodi su cui lei si sofferma nel suo libro, le volevo chiedere, è più la cronaca nera o l'eco della crisi economica, secondo lei, a portare maggiormente questa sensazione di insicurezza e di sfiducia? Io penso che quando rimane sul campo soltanto la cronaca, no, come proprio forma, dicevo prima, di comprensione del tempo, di autorappresentazione del mondo, di racconto dell'umanità, fatalmente la cronaca tende a polarizzarsi esclusivamente in due direzioni, cronaca nera e cronaca rosa. Quando c'è solo la cronaca, tutto quanto diventa o nero o rosa, e per nero intendo il racconto del delitto, e per rosa intendo invece il racconto, diciamo così, della fatuità, no? Dello sciocchezzaio, del friccicore sessuale, quindi della libido imperante, e tutto il resto viene risucchiato da queste due polarità. Anche le cose che invece avrebbero, come dire, più rilievo, no? E più portanza per le nostre vite, come la crisi economica, che è tanto più significativa per le nostre esigenze rispetto, che ne so, al delitto del giorno, tendono a svanire, tendono a ridursi a una sorta di racconto di nera, per l'appunto. Tendiamo a vedere anche la crisi nell'ottica appunto di piccole ruberie, di ladrocini, di cricche che maneggiano a nostro danno con i soldi dei contribuenti, tutte cose che esistono e che dobbiamo affrontare, ma che finiscono per oscurare in questo risucchio appunto di nera e di rosa le grandi questioni che concernono tutti noi e che sfumano sullo sfondo. Ma questa non è soltanto una responsabilità, diciamo, di chi le trasmette queste notizie, quindi i media, ma è una comune percezione di quanto accade, mi sembra di capire anche dalle sue stesse parole. Ma davanti a tutto questo e davanti anche agli effetti che queste notizie, stando a quanto lei appunto scrive nel suo libro, producono sulle persone, sugli italiani, su questo senso di delusione, di cosa si avrebbe bisogno a protezione di quella che potrebbe essere, diciamo, facendo un parallelo con il vecchio teatro greco, di una catarsi e che quindi allontani quella sensazione di proiezione delle proprie paure? Sì, ecco, sicuramente io sono, credo, in quanto scrittore non potrei fare diversamente, che per esempio l'arte, no? L'arte, la letteratura siano una forma di narrazione del mondo alternativa a questo cronachismo che poi diventa cronicismo, no? Che diventa proprio una malattia dello spirito. E io credo che, non l'unica, certo non bastano da sole, che però un racconto che abbracci l'esistenza umana, individuale e collettiva, in maniera più ampia, più generosa, anche più spietata, possa sicuramente aiutarci a riscattarci da questa appunto ottica miope, da questa dittatura del presente, e possa produrre anche una catarsi e anche una forma, ecco, di compassione, di sentire assieme ad altri. Io non accuso soltanto Emilia, questo libro si compone di articoli che io stesso ho scritto sui giornali negli ultimi anni, e quindi fa parte delle scritture mediatiche. Io penso che i media sicuramente contribuiscano pesantemente a questo cronicizzarsi delle nostre vite, perché la cronaca è il loro linguaggio d'elezione, quello più naturale. Il proprio tempo della cronaca. Sì, però io penso che, ecco, il discorso sia più ampio, che questo cronachismo e cronicismo sia una piega esistenziale, no? Una sorta di malinconirsi, di rinchiudersi su di sé della coscienza occidentale. Il nero e il rosa, dunque, delle notizie, in un intreccio che è la trama portante di molta cronaca. E nella seconda parte di questa puntata agostana di Storiacce, con Antonio Scurati, andremo nei limoneti di Ravello e poi tra le mille luci, ora un po' appannate, di Milano, per rivedere alcune storiacce. Storielle. Storiacce. Seconda parte delle storiacce di Ferragosto, puntata che è un passaggio attraverso il tempo della cronaca e il tempo degli scandali neri e rosa, letti e commentati fin sotto gli ombrelloni, ma forse con una lente diversa rispetto al tempo della lettura cittadina. E allora in questa puntata vacanziera, in un certo senso, stiamo ripercorrendo il tempo della cronaca e degli anni che non stiamo vivendo, per dirla col titolo dell'ultimo saggio di Antonio Scurati, e ricominciamo da lui e da una storiaccia che lambisce e insidia anche una delle più celebri destinazioni del turismo italiano, Ravello, costiera amalfitana. E visto che è estate, io partirei da una storiaccia che torna puntuale, che è quella del fuoco. Un fuoco che è immagine di perdizione, di cenere, ma anche di perdita del passato come della bellezza. Fuochi che in Italia ad ogni estate vanno ad intaccare anche paradisi naturali come quello di Ravello, di cui lei parla nel suo libro, salvo poi scoprire che spesso, non era questo il caso, ma in molti degli incendi italiani dietro c'è la mano di chi specula su quei roghi, di chi garantisce con quelle fiamme e quindi anche con la distruzione che esse portano la propria esistenza, per non stare a parlare delle dinamiche da malavita organizzata per questioni di uso dei terreni. Che paese è questo dove c'è chi trova nella distruzione del suo stesso paese la sua sopravvivenza? Guardi, le ringrazio di aver fatto questa domanda, perché mi sembra un esempio chiarificatore e poi mi consente di parlare di un luogo che mi è molto caro, che è appunto Ravello, questo magnifico paese sulla costiera amalfitana dove io ho avuto veramente il privilegio di trascorrere tutte le estati della mia vita fin da bambino, quindi per me è appunto una sorta di paradiso dell'infanzia. Ecco, lì concordo. Sì, non è un paradiso naturale Ravello, è un paradiso storico. Tutta la costiera amalfitana è un luogo magnifico perché, oltre alla bellezza naturale, è un luogo scolpito nel tempo dal lavoro dell'uomo, che generazione dopo generazione ha strappato a una montagna lussureggiante ma anche impervia terreni coltivabili. Sapete quei terrazzamenti, no, che consentono di coltivare la vite e il limone su fianchi scoscesi di montagna che precipita a mare? È un paesaggio vivente, un paesaggio che vive nel tempo per il lavoro dell'uomo. Ebbene, questo paesaggio da molti anni, da troppi anni, nella mia memoria d'uomo, sistematicamente, ogni estate, in maniera appunto cronachistica, no, viene dato alle fiamme dalla mano dell'uomo, dalla stessa mano che lo ha scolpito nel tempo, rendendolo terreno coltivabile e abitabile dall'uomo. Ebbene, questa immane tragedia, perché chiunque assista, no, a anche un qualcosa di spettacolare, questo fuoco che incendia la notte della costiera amalfitana, e di assolutamente tragico, si ripete anno dopo anno, appunto dentro quella dimensione di prigionia della cronaca, nel senso che ogni anno le cronache ne parlano, ma ne parlano come un fatto circoscritto a quella stagione, che però proprio per questo l'estate dopo è destinata a ripetersi nello stesso modo, e l'estate dopo ancora. Ecco la mancanza di un orizzonte di tempo più ampio, no, in cui gli uomini pensino al proprio presente in vista di un futuro e nel dialogo con un passato, che diventa la condanna al ripetersi di una sciagura. Noi dovremmo ritrovare lo spirito dei nostri padri e dei nostri avi, che non hanno lasciato intatto fatto quel paesaggio naturale, lo hanno trasformato con la propria opera, ma costruendo cattedrali in riva al mare. Ad Amalfi c'è una cattedrale in riva al mare, Ravello è un luogo popolato di ville meravigliose costruite nel Medioevo e nei secoli successivi, e oggi invece la mano dell'uomo appicca il fuoco. E però voglio dire, perché il mio discorso non sia anche così soltanto disperato, che per esempio Ravello è stato costruito negli ultimi anni a seguito di una interminabile sequela di battaglie legali di fa interne, un piccolo auditorium progettato da Oscar Niemeyer, controverso se vogliamo, ma dal mio punto di vista invece è uno di quei piccoli gesti, di tentativi degli uomini del nostro tempo di lasciare un segno su questa terra, ma nell'ottica della bellezza, di qualcosa di bello destinato a durare. Ecco, ma al di là, diciamo, di come viene raccontata, ma lei come analizza fatti come quello di cui stiamo parlando, o ancora il lungo elenco di cronache, visto che parlavamo della Campania, di inquinamento e di avvelenamento delle campagne dell'agro aversano, ad esempio, ad opera della malavita organizzata? Lei cita una frase, dice: nessun uomo è tanto pazzo da vendere la terra su cui cammina. Come legge questa sfilza di notizie che vanno però tutte in una stessa direzione, in cui ancora una volta è chi abita il proprio paese a distruggerlo e a trovare la propria dimensione di esistenza anche in quella distruzione? Con sconforto, la frase che lei ha citata viene attribuita a un leggendario capo indiano. Noi tutti sappiamo che la specie umana ha una formidabile inclinazione alla distruttività e anche all'autodistruzione. I casi di quelle aree controllate dalla criminalità organizzata che lucrano e fanno scempio al tempo stesso del territorio, della terra su cui mettono i piedi, lo dimostrano apertamente. Noi, come suggerisco dal titolo e dall'immagine di copertina, viviamo questo paradosso, cioè siamo noi uomini e donne delle due generazioni nate in Europa e in Nord America dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, siamo un pezzetto privilegiato di umanità senza eguali, siamo l'umanità, appunto, che dicevo, più agiata, più nutrita, più longeva, più sicura che abbia mai calcato la faccia della terra rispetto a qualsiasi altra epoca e a qualsiasi altro luogo del pianeta. Eppure, se guardiamo, no, alle nostre inquietudini, alle nostre sicurezze, vi leggiamo in filigrana un'esperienza, diciamo così, della distruttività umana che è molto presente. Noi non abbiamo conosciuto la guerra in senso proprio, però abbiamo nel nostro mondo segni di guerra, e il fuoco nei coltivi di cui parlavamo prima, quando io vedo bruciare le vigne o i limonetti della costiera amalfitana durante una, come dire, molle estate di canicola e di bagni al mare, assisto a un'immagine che è tipica dei racconti di guerra. Il fuoco arriva nei coltivi soltanto quando la guerra, come dire, esplode nel mondo umano, così come quelle brutture, aberrazioni di terreni inquinati, di suoli radioattivi, sono tipiche di un mondo in guerra. Eppure questo mondo in guerra è annidato dentro questo universo, diciamo così, pacificato da più di 50 anni, di un'umanità che dovrebbe essere pacifica e agiata e che non lo è. Dalla costiera amalfitana a Milano. Milano è anche protagonista di alcune sue analisi nel suo libro, e anche cronache recenti sembrano ultimamente dare un'immagine diversa rispetto al luccichio atteso di questo lontano Expo 2015. Com'è il tempo della cronaca milanese? Da cosa è scandito? Mi sforzo di parlare per quanto possibile a nome della mia generazione. Io ho varcato l'anno scorso la dorsale dei 40 e ho vissuto a Milano negli ultimi 20 anni. Quando ci arrivai ormai più di 20 anni fa per studiare filosofia alla Statale, eravamo nella coda di quello che è stato l'ultima stagione di scintillio, no? Secondo me fasullo di questa città, e quindi quella della Milano da bere, la certo, moda, il marketing, Terrazza Martini e tutto il resto. La Terrazza Martini, cioè io all'epoca ero del tutto estraneo, perché si figuri, studiavo filosofia in Statale, quindi quella roba lì non era certo il mio mondo. Però in quanto ventenne che si affacciava alla vita sul finire degli anni 80, ricevetti una promessa. La promessa era che la nostra vita sarebbe stata meravigliosa, e facilmente meravigliosa. Quella promessa è stata smentita brutalmente con una cadenza ciclica di crisi appunto ad ogni successivo decennio. L'ultima è stata questa recentissima, no? Innescata dal crollo della finanza tossica dell'anno scorso. Ecco, un altro pilastro della immagine milanese che è stato intaccato, una delusione complessiva che passa un po' anche attraverso la televisione, del rapporto tra piccolo schermo e realtà. Su questo rapporto lei si sofferma in diversi passaggi del suo libro, ma io ora la volevo, diciamo così, stimolare su un aspetto in particolar modo. I boss si fanno costruire la casa come quella di Tony Montana, lei ricorda in particolar modo anche un'analisi su questo di Saviano. Allo stesso tempo i ragazzini si comportano come dei divi maledetti, e a volte anche i delitti di cronaca più provinciale spesso avvengono secondo richiami o suggestioni di film o telefilm. Qual è il rapporto tra la TV e la cronaca vera? C'è questo aspetto che lei menzionava, no? Questa sorta di mimetismo impazzito e senza confini, per cui si crea un circolo vizioso di imitazione reciproca tra realtà criminale e finzione che diventa criminogena. Però io credo che questo sia un aspetto, diciamo così, abbastanza sorprendente e scioccante, ma tutto sommato secondario. Quello che a me interessa è ciò che questa rappresentazione ossessiva, continua, morbosa della violenza televisiva, in particolar modo mediatica, gli effetti che sortisce sulla fisiologia, cioè sulle persone normali, diciamo così, non sugli squilibrati, ma su quelli che sono hanno una. Ecco, questi effetti, che sono molto più diffusi, secondo me, e pervasivi, sono opposti a quelli dell'attivazione della violenza, cioè creano una sorta di vittimizzazione secondaria, la chiamano gli esperti, nel pubblico di massa, cioè tutti noi esposti alla rappresentazione continua di dosi massicce di violenza criminale che vediamo in televisione, leggiamo, eccetera, eccetera. Viviamo come vittime potenziali di quella violenza e quindi conformiamo il nostro agire allo stato di vittime e quindi rinunciamo a tutta una serie di azioni, ambizioni, aspirazioni, desideri che avrebbe un uomo che si senta appunto libero e padrone, e invece ci comportiamo già appunto come delle vittime, stiamo schisci, per dirla alla milanese, no? Abdichiamo a tante cose della nostra vita, soprattutto della nostra vita collettiva. È un tipo di lettura da autogrill? Perché lei fa riferimento a un mio articolo in cui raccontavo, esatto, di come ho ritrovato il sentimento di essere italiano in un autogrill. Sì, insomma, se uno entra in un autogrill appunto di queste disseminati lungo le autostrade dell'esodo estivo, la prima cosa che vede, oltre appunto alla pubblicità della cosiddetta tipicità, no? Ormai tutto è tipico. Oltre a questo, dell'Italia cosa vede? Anche i titoli dei quotidiani, anche i titoli di cronaca nera hanno un'altra lente in un autogrill. Sì, esatto, viene come dire così assalito dai titoli dei quotidiani che parlano appunto del malcostume imperante o perdurante, oppure dalle pile di bestseller che per lo più quasi sempre sono quei pochissimi titoli che arrivano ad essere venduti negli autogrill, o racconti presunti dal vero dell'Italia criminale, oppure racconti finzionali che imitano i modelli americani della crime story, quindi o io uccido o io sono ucciso, ecco. Scurati è per un, diciamo così, un salvagente, per restare ancora in lessico balneare, un salvagente che lei stesso lancia evocando la leggerezza di Calvino e l'angelo di Walter Benjamin. Come usarli? È andata male la leggerezza di Calvino. 30 anni dopo la sua proposta di leggerezza, la nostra società lo ha realizzato, ma dando tutt'altro significato a quella leggerezza, no? E rendendola un po' inanità, vacuità. L'Angelus Novus di Benjamin è diventato non più un angelo della storia, ma un angelo della cronaca. Ad ogni modo, questi maestri che comunque rimangono, ci parlano di lontano, no? A cavallo dei decenni, a volte dei secoli, a cavallo delle centinaia di migliaia di pagine di fatti e fattacci di cronaca nera, e questo di per sé, il fatto che ci parlino ancora, che parlino a un'umanità lontana e straniera per loro, che siamo noi oggi, deve darci vigore, forza e farci alzare la testa e pensare che anche noi possiamo rivolgerci a un'umanità più lontana di quella, come dire, che cade a tiro di cronaca a un metro accanto a noi. Vi ricordo che le storiacce ora sono anche un blog, potete raggiungerlo dal sito radio24.it, dalla pagina del programma, o digitare radio24.it/blog/calandra. Ciao, buon Ferragosto a tutti, a sabato!